avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Come già sanno gli ascoltatori che mi seguono dal profilo Facebook, perché l'ho annunciato ieri, avendo subito grande seguito, oggi parlerò del rapporto tra uomo e cavallo. Voi direte cosa c'entra? Cosa c'entri te con i cavalli, che fai trasmissioni in cui parli di ammazzar maiali, sei così cinico nei confronti dei poveri gattini abbandonati, non hai pietà per i cuccioli così teneri di cagnolini? No, io con il cavallo invece ho un rapporto molto particolare. Iniziare da bambino che sognavo i centauri. Sognai tante volte da piccolo il fatto che venissero questi centauri, un po' perché avevo un padre appassionato di mitologia e mi raccontava che il centauro era un grande istitutore di ragazzi. Sognavo che mi portava sulla groppa questo centauro e mi raccontava, mi parlava, come vedevo appunto nei libri che mi illustrava mio padre. Li sognavo spesso, li vedevo galoppare, non trovavo nulla di strano e di particolarmente stridente con la mia concezione del mondo e l'umanità che potesse esistere qualcosa mezzo uomo e mezzo cavallo. Anzi, trovavo una perfetta sintesi del centauro, che la parte sopra fosse umana, che in fondo era quello che mancava al cavallo per essere uguale a noi. Andando avanti poi nel tempo, per una stranissima situazione, non ricordo manco bene perché feci il militare in cavalleria, non c'entravo nulla, i cavalli non li vidi mai perché stavo per laurearmi, appena laureato non ricordo bene, mi misero in furia naturalmente a tenere i rolini delle entrate, delle uscite, degli appelli, dei contrappelli, delle licenze, quindi feci un militare da imbucato, ma già respiravo l'aria dei cavalli, li vedevo uscire belli, fulgidi, stupendi, a fare le grandi guardie al Quirinale, nei posti importanti, vedevo il maneggio dove i veri cavalieri cavalcavano e sentivo quell'odore inconfondibile di cavallo. Poi andando avanti nel tempo ebbi per necessità familiari bisogno di accompagnare un mio figlio a prendere delle lezioni di equitazione o perlomeno di un rapporto molto particolare con il cavallo. E quindi cominciai a capire che in realtà fra uomo e cavallo esisteva qualcosa di sottile, qualcosa di impalpabile, qualcosa che non conoscevo e qualcosa che questa mattina vorrei imparare a conoscere assieme a voi. Mi sono subito accorto dal risultato delle persone che mi hanno scritto su Facebook che l'argomento è molto sentito. In varie maniere e in varie sfumature il rapporto con il cavallo è qualcosa che completa o perlomeno integra la vita di alcuni esseri umani. Per alcuni il cavallo è semplicemente fare una battaglia per le botticelle di Roma, che non debbano soffrire i poveri cavallini maltrattati e martoriati. Per altri è un'attività ludica, vanno a farsi grandi passeggiate a cavallo, ma montano come dei salami su dei cavalli, che hanno delle selle che sono delle piazze d'armi, c'è un signore che li porta in giro uno dietro l'altro, però hanno comunque l'illusione di avere un rapporto con il cavallo, o ce l'hanno sicuramente. Peraltro è un'attività agonistica, importante, divertente, peraltro è una passione li ha bruciati. La passione per i cavalli è qualcosa non legata tanto al rapporto con l'animale, ma ciò che l'animale muove nelle nostre endorfine, nella nostra emotività, nel nostro sistema emotivo, perché passano la vita a scommettere sui cavalli. Comunque sia, il cavallo è presente anche nella loro identità. Peraltro ancora rapporto molto più profondo, ci sono persone che mi hanno scritto che ormai non riuscivano più a vivere senza cavalli. Beh, 800240024. Questa mattina darò libera possibilità di accesso, di espressione, di pensiero a tutti coloro che veramente hanno un rapporto profondo con il cavallo. Che c'è, tesoro? Voglio vedere Pilgrim. Guarda dove cammina, è fangoso dietro la scuderia. Lì dietro. Ma come sarebbe? Perché non è nella stalla con gli altri cavalli? Pilgrim non è più lo stesso cavallo di una volta. In effetti non credo che questo sia il momento migliore perché tu lo veda. Lo voglio vedere. Ciao, bellissimo. Papà, perché non me l'hai detto? Mi dispiace, piccola. Dovevi dirglielo, Annie. Questo animale non ha speranze. Annie, adesso me la dai l'autorizzazione ad abbatterlo? No. Questo è uno stralcio del film L'uomo che sussurrava ai cavalli, un film del 98, dall'omonimo romanzo di Nicholas Evans, con interprete Robert Redford. Inizia proprio con la storia di un cavallo che ha avuto un incidente in fin di vita, e sia il cavallo che la sua cavallerizza ne sono usciti piuttosto male, molto male. Il cavallo va abbattuto. Il cavallo poi non sarà abbattuto, diventerà protagonista una meravigliosa storia d'amore che vede intrecciati comunque uomini e cavalli, uomini, donne e cavalli. Una sorta di triangolazione in cui l'uomo, che ha una capacità che va oltre la consuetudine umana di comunicare con i cavalli, riesce a trarre da questo cavallo, che sembrava ormai destinato alla carne in scatola, un'importante resurrezione, non tanto per il cavallo stesso, ma anche per la sua cavallerizza, che era rimasta menomata dall'incidente, e riacquisterà sia fiducia in sé, sia il rapporto con il cavallo, sia si troverà di fronte a un bivio amoroso molto difficile, perché dovrà scegliere a un certo punto tra legittima famiglia, fatta di normali esseri umani, si relaziona con esseri umani, e il fantastico e meraviglioso Redford, l'uomo che sussurrava i cavalli. 800240024. Grazie per avermi... Posso fare qualcosa per lei, signora? Sì, sì. Ho letto un articolo. Pare che lei aiuti le persone che hanno problemi con i cavalli. Io aiuto i cavalli che hanno problemi con le persone. Ah. La metta pure come vuole. Questo articolo diceva che lei è un uomo che sussurra i cavalli? Ah, sì. Diceva così, eh? Un sussurratore. E speravo che potesse venire a New York per dare un'occhiata al cavallo di... Signora, mi dispiace, ma temo che ci sia un malinteso. Qualunque cosa abbia letto, perché non è esattamente questo il mio lavoro. Tengo corsi collettivi. Potrebbe venire a New York solo per un giorno, sono solo poche ore. E comunque non li tengo adesso, sto per andare nel Montana, dove ho un ranch di cui occuparmi. Sarebbe tutto spesato, è chiaro. In prima classe. La prima classe per il Montana è uno spreco di soldi. Bene, puoi indicarmi un periodo in cui... Accidenti, ma sono troppo educato quando dico no nel Nevada. Significa sì dalle tue parti. Ascolti, sono addolorato. Ha chiamato la persona sbagliata. Tenente colonnello Michele Perugini, buongiorno. Buongiorno a lei. Quante volte lei si è occupato di cavalli in queste condizioni? Beh, in queste condizioni mai. I cavalli comunque hanno bisogno dell'aiuto di un essere umano. Sì, i cavalli hanno bisogno dell'aiuto di un essere umano, ma molto spesso, come proprio diceva l'interprete del film, sono i cavalli che hanno bisogno di essere aiutati a volte, perché noi esseri umani ci poniamo in un modo non proprio consono nei loro confronti. Allora, il tenente colonnello Michele Perugini, che ho subito introdotto nella nostra chiacchierata, è capo del centro ippico militare dei lancieri di Montebello, quindi un uomo che vive assieme ai cavalli. Il cavallo, oltre a essere la sua materia professionale prima, perché è un cavaliere, è un lanciere, un ufficiale dei lancieri, caserma in cui io impropriamente prestai il servizio militare come squallidissimo marmettone, quindi, e soprattutto è un profondo conoscitore di cavalli, perché occupandosi del centro ippico militare si occupa sia di militari sia di cavalli, ma anche di persone che hanno bisogno comunque del cavallo come oggetto terapeutico, perlomeno di aiuto in alcune loro difficoltà. È possibile stabilire per noi profani e non conoscitori alcune linee di principio nel rapporto fra uomo e cavallo, colonnello? Sì, la linea di principio è, diciamo, prima di tutto culturale, perché il cavallo fa parte della nostra vita da sempre. Adesso non sto qui a ricordare, insomma, la storia che ha visto il cavallo vicino all'uomo praticamente dalla nascita della società e dell'umanità, così. Sì, a un certo punto gli esseri umani hanno capito che tanti animali che avevano attorno, ce n'era uno in particolare che poteva essere utile. Tant'è che gli arabi, coloro che sono di religione islamica, dicono che il cavallo è il più grande regalo che Dio abbia fatto all'uomo nella terra. E in questa cosa, che sintetizza un po', insomma, tutto lo sviluppo del rapporto tra l'uomo e il cavallo, si può capire che il cavallo tra gli animali ha una collocazione particolare, insomma, che ha inciso nella nostra vita. Voi, nella nostra cultura. Vivete a contatto con i cavalli, lei sta più vicino ai cavalli, cioè sta vicino parimenti esseri umani a cavalli, sì, perché ce l'ha sempre intorno. Esiste questa impalpabile filo di comunicazione fra l'uomo e il cavallo? Tutti gli amanti degli animali, con il mio cane sembra umano, il mio gatto mi riconosce a distanza, se non ci sono piange. Con il cavallo com'è il rapporto? Ecco, questa è una cosa che è una domanda, è un'osservazione che sento fare spesso e si fa spesso. molti si esercitano in, diciamo così, in giri di parole, lucubrazioni nel dire il cavallo è più intelligente del cane, il cane è più intelligente del cavallo, il gatto. Il cavallo è un grosso mammifero che è sempre stato accanto all'uomo così come c'è potuto stare, cioè non ha potuto usufruire di quei benefit, chiamiamoli così, che hanno potuto usufruire i piccoli animali come il cane e il gatto. Quindi il cavallo non è mai stato ai piedi, al capezzale della... Se l'è guadagnato lavorando, diciamo, il suo ruolo nella società. Quindi l'uomo lo ha impiegato, poi la sera lo andava a rimettere in scuderia, chiudeva il box e se ne andava a casa. Il cavallo ha sempre vissuto in questo rapporto di semisolitudine, in questo rapporto con l'uomo. Quindi, mentre il gatto mangiava e dormiva, il cane tranquillo lì. Chiaramente, quindi le atteggiamenti antropomorfi che ha il cane o che ha il gatto non possono essere... Non fa le fusa al cavallo, ecco, molto austero. Però, e questo si vede proprio nella pratica, lavorando vicino ai cavalli con un po' di esperienza di scuderia, ci si accorge che i cavalli di oggi, che sono cosiddetti stallini, perché tutti i cavalli di oggi nascono, i cavalli che si usano nello sport e in tutte le attività nascono in scuderia, vengono appena escono dalla madre, appena c'è il parto, vedono prima di tutto l'uomo, hanno questo contatto empatico con l'uomo fin dall'inizio, per cui cosa succede? Succede che molto spesso i cavalli che hanno vivono tutta una vita in scuderia a contatto con l'uomo, poi alla fine della loro vita, quando vengono messi al prato alcuni persone in pensione pensando di fargli del bene, lasciandoli liberi in spazi aperti, molto spesso muoiono in breve tempo, perché non si sanno più adattare, non hanno più come riferimento l'uomo, non hanno più come riferimento la mangiatoia dove l'uomo gli metteva ogni giorno il mangiare. E quindi questo già è sintomatico. Noi abbiamo plasmato questo animale e abbiamo creato un qualcosa molto vicino a noi, che quindi costituisce anche un feeling che si è creato indissolubilmente. Quindi la mia ossessione fanciullesca del centauro in realtà trova una realizzazione. Il cavallo ha bisogno della sua metà di essere umano, e l'essere umano ha bisogno comunque, se ha un cavallo, di avercelo vicino come qualcosa di complementare alla propria esistenza. Abbiamo già due ascoltatori al telefono. Abbiamo Massimo, buongiorno. Buongiorno. Lei è un veterinario, leggo. Io sì, sono veterinario e mi occupo di cavalli. Prima sentivo che qualcuno di voi non riesce più a concepire una vita senza cavalli. No, nessuno l'ha detto, l'ho detto io adesso. Sì, no, l'ha detto nel senso che qualcuno, non so dove l'abbia letto, comunque mi ricordo che ha detto questa frase. A me è venuto in mente esattamente l'opposto, cioè la gran parte di cavalli farebbero volentieri a meno dell'uomo. Lei è convinto di questo? Sì, ma io lo vedo tutti i giorni. I cavalli, come diceva il colonnello, che vivono in scuderia sono dei disadattati, sono dei detenuti, non sono veri cavalli, perché un vero cavallo è un cavallo che può fare il cavallo, invece l'uomo tendenzialmente tende a limitare l'equinità del cavallo. L'uomo ha questa sua funzione di usare gli animali, anche i maiali farebbero forse a meno di essere messi in porchetta. Questo è l'uomo occidentale. Ci sono popolazioni come i nativi americani, quelli che chiamiamo pelle rossa. Sì, che non esistono più ormai. No, esistono come? Sì, nelle riserve. Vivono nelle riserve, fanno delle cose, cioè esistono come figure umane. Loro hanno tutta un'altra concezione del cavallo e un'altra relazione con il cavallo. Ai tempi in cui c'erano le guerre indiane, un uomo e un cavallo diventavano una macchina da guerra invincibile. Poi i bianchi sono arrivati con i fucili e allora gli hanno fatto un mazzo. Sì, ma lei scusi, adesso non voglio contrastare, ha una visione un po' romantica. No, guardi, non è assolutamente romantica, perché vabbè, attualmente... Io la rispetto, guardi, però mi fa un po' sorridere pensare al nativo. Anche i cinesi erano delle macchine da guerra e usavano cavalli. Questo per dirle che con il cavallo si possono ottenere grandissime cose, ma dipende molto da come ci si approccia, da come si impara a capire come comunica il cavallo. Va bene, il cavallo, grazie. Non è un cane. La grandissima parte degli occidentali trattano il cavallo come se fosse un cane e non ottengono gli stessi risultati, ma perché il cane è un predatore e il cavallo una preda, e sono due universi completamente diversi. Colonnello Perugini, su questo che dice il veterinario, sono visioni contrastanti, ma il mondo è bello perché la pensiamo diversamente. Quello che ha detto il dottore è vero, e sono anche d'accordo con lui, perché il cavallo ha bisogno di spazi, ha bisogno di esprimere i suoi comportamenti, e spesso e volentieri in alcune scuderie alcuni cavalieri, alcuni proprietari non rispettano queste, però questo non è vero in senso assoluto nel mondo occidentale, non dissento da questo per quanto riguarda questa affermazione. Ci sono delle scuderie anche sportive che io conosco, ho frequentato anche all'estero, non solo in Italia, insomma, soprattutto in Francia e in Germania, dove hanno una forte attenzione al cavallo come secondo gli aspetti della propria, delle proprie esigenze naturali, della propria personalità. Quindi ci sono per esempio delle scuderie con ampi paddock dove i cavalli trascorrono buona parte della loro giornata fuori, dove vengono messi in box solo per essere preparati, puliti per l'attività sportiva che viene condotta circoscritta in uno spazio di tempo ben preciso, e poi vengono rimessi in questi ampi spazi proprio per rispettare la loro esigenza di movimento. Mi sembra che lei abbia detto all'inizio, i cavalli che nascono nella stalla è un'altra cosa, il cavallo che nasce nelle ampie praterie. Poi mi interessa a questo punto, vedo che già ci sono tantissimi ospiti, tantissimi ascoltatori, però a me intrigava molto questo rapporto, questi punti di visione diversi nel rapporto tra uomo e animale, in questo special modo il rapporto al cavallo. Ho qui in studio con me la dottoressa Assunta Papa. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Che è psichiatra e docente dell'Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre. Quindi diciamo la sua professione in gran parte è applicata nel capire, nel guidare, nel conoscere, nello stimolare il rapporto proprio fra uomini e cavalli. Lei come trova questo diverso atteggiamento dell'essere umano nei confronti del cavallo? Buongiorno. Rappresentato ben diversamente proprio, in questa mattina. Proprio riprendendo un attimo il suo esempio precedente del centauro, cioè di questa entità mezzo uomo, mezzo cavallo, che ha sempre fatto parte... Lei che è junghiana adesso non mi analizza. No, ha sempre fatto parte della nostra mitologia, anche oltre di quella degli altri paesi, anche di quella latina, ma comunque ha sempre fatto parte di noi questa figura. Allora, partendo da questo, mi piace rispondere anche all'ascoltatore, perché oggi che l'utilizzo della animale cavallo nell'attività quotidiana di compagnia dell'uomo e di supporto nelle attività più pesanti, cosa e di terapia che oggi, addirittura, di cui parliamo. Sì, ma oggi nell'ultimo secolo questa funzione che l'animale ha sempre avuto per noi nei secoli precedenti è andata a finire con l'introduzione dei macchinari più abili. Allora, proprio oggi utilizzare questo animale o essere insieme a questo animale, e sottolineo insieme, significa riportare un po' la dimensione del centauro, cioè noi proprio nella riabilitazione equestre quello che cerchiamo di fare è mantenere e diciamo promuovere quella che è il filo che lei diceva inizialmente, che esiste simbolicamente tra l'essere umano e questo particolare animale, come diceva il colonnello Perugini, ormai molto adattato alla vita vicino all'uomo, anche se non tanto quanto i piccoli mammiferi. Noi cerchiamo di sfruttare proprio le componenti simili tra queste due specie, sia dal punto di vista di componenti motorie, neurologiche e relazionali, e le utilizziamo nel rispetto dell'animale e nel rispetto dell'essere umano, mantenendo proprio oggi che l'animale è meno sfruttato, diciamo, come componente di potenza, ne utilizziamo le componenti di similitudine. Anche dottoressa, mi corregga se sbaglio, ma un animale stressato, nevrotizzato, sofferente non sarebbe mai un supporto terapeutico per un essere umano? No, ovviamente no, ma io sottolineo la componente di bionivoca tra l'essere umano e l'animale, dove se l'animale è stressato l'uomo può intervenire su lui, se l'uomo è stressato, diciamo come termine generico, sia dal punto di vista motorio, neurologico o altro, può utilizzare questo animale per compensare alcune sue cose. Quello che è il concetto fondamentale della riabilitazione da tutte e due le parti, sia dal punto di vista dell'animale che dell'uomo. Velocemente, prima delle informazioni alla borsa, Ali abbiamo al telefono. Buongiorno. Buongiorno, salve. Lei è un arabo? Sì, sono marocchino e vengo da una tribù che da padri, zii, nonni che hanno avuto sempre un rapporto particolare con i cavalli. Quindi l'ha vissuto insieme ai cavalli. Ci racconti, certo, ci spieghi. Certo, da bambino anche dai racconti dei nonni. Quindi il mio intervento sarà su due basi, a livello culturale e storico. Inizierai con quello culturale. Il rapporto tra l'arabo e il cavallo è basato su incitazioni della religione, sarebbe due livelli. Il primo è il Corano, che ha detto... Sì, l'ha detto già il colonnello Perugini, che è il più grande dono che ha dato... Una piccola specificazione, sì, che nella terza posizione dopo l'amore delle donne e i figli. L'altro è stato molto importante, quello del profeta, che ha detto: là dove c'è il cavallo non manca mai benessere, tranquillità. E quindi noi abbiamo vissuto. Perché allora, Liv, senta, posso chiedere una cortesia? Sennò sembra che le voglio mettere fretta. Può interrompere soltanto 30 secondi? Mandiamo le informazioni dalla borsa, così diamo più attenzione e poi ci continua questo meraviglioso racconto sul suo rapporto con i cavalli. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Lei è quello che gli si è avvicinato più di tutti. Sarò sincero con lei. Credo ancora che sia venuta qui per niente. Ma prima che ci faccia un pensierino, devo sapere una cosa adesso. Ed è una domanda per Grace. Quando lavoro con un cavallo, non serve se lo faccio da solo. Il proprietario deve collaborare. Questo sarà un po' complicato. Può essere complicato, facile quanto le pare. Ma sarà Grace poi a cavalcarlo. Dico bene? Giusto? È un accordo. Non so se posso fare qualcosa, ma sono pronta a provarci, se mi aiuti. Hai qualche problema? No, dico, non è ovvio. Non per me. O lo vuoi fare o no. Senta, parlerò con lei. Mi scusi, con il dovuto rispetto. 800 24 00 24. Questa mattina stiamo parlando del rapporto tra uomo e cavallo. L'uomo e cavallo si sono incontrati a un certo punto nella nostra storia. Bene o male, il cavallo si è adattato a essere un supporto dell'uomo. Nei nostri ancestrali e profondi sensi di riconoscimento di realtà che non sempre sono visibili ad occhio nudo, pensiamo che il cavallo ormai faccia parte indissolubilmente della nostra esperienza. Oggi i cavalli non vengono più usati per lavorare, oggi non si fa più la guerra a cavallo, oggi non si sposta più a cavallo. Oggi il cavallo è relegato a una nostra area ludica, una nostra esperienza, non è propriamente quella di necessità quotidiana. Questo discorso non vale naturalmente per il tenente colonnello Michele Perugini, che è capo del centro ippico militare dei Lancieri di Montebello. Questa mattina ci racconta di come lavora lui, come vive lui con i cavalli. È singolare questa cosa, pochi sanno che in realtà all'interno dell'esercito, in particolare dei Lancieri di Montebello, ci siano attività di supporto anche per chi ha bisogno di avere rapporto con cavalli. Ci spiega meglio cosa fate voi, colonnello? Allora, il nostro reggimento e il centro ippico che io dirigo ha più attività, tra le attività svolge più attività, oltre all'attività di rappresentanza con lo squadrone a cavallo, perché il reggimento ha anche una componente di rappresentanza con uno squadrone vero e proprio montato che esegue quel bellissimo carosello che molti di noi avremo visto a Piazza di Siena, gli ascoltatori. Io mi sono portato la lancia per parecchio tempo nei vostri piazzali, ma erano 20 anni fa. Oltre a svolgere attività di attività ippica giovanile rivolta ai figli dei dipendenti della difesa, quindi mettiamo a cavallo i ragazzi e funzioniamo né più né meno come una scuola di equitazione. Tra l'altro noi siamo anche affiliati alla FISE, quindi siamo riconosciuti e affiliati alla FISE, quindi operiamo in pieno rispetto del regolamento dello statuto della Federazione Italiana Sport Equestri. Oltre a far attività equestre ai quadri della zona di Roma, quindi ufficiali, sottufficiali, anche ai nostri volontari in servizio permanente, perché ormai, come tutti sanno, l'esercito non ha più la leva, abbiamo tutti i ragazzi professionisti, per cui questa attività, soprattutto al rientro da teatri operativi, al rientro dalle situazioni che possono essere ad elevato anche stress, è un'attività molto bella, perché loro quando rientrano dalle missioni, nei periodi di cosiddetti di guarnigione, chiamiamoli così, svolgono attività sportiva e tra le altre possono anche svolgere questa l'equitazione, che comunque è molto utile per loro. Non ultima in ordine di importanza, e anzi per me in particolare per prima, perché io ho sempre seguito questo aspetto da molti anni, è la riabilitazione equestre, l'ippoterapia e riabilitazione equestre, che nell'esercito viene svolta da sempre, perché vorrei ricordare che la riabilitazione equestre, la dottoressa Papa ne sa più di me al riguardo, è nata in Italia a Milano, la NIRE è nata a Milano negli anni 70, nel 1977, grazie alla signora Citterio, che ha iniziato presso le batterie a cavallo, il gloriosissimo reggimento di batterie a cavallo di Milano, le Volore, hanno iniziato nel maneggio delle Volore per la prima volta l'attività di ipoterapia, riabilitazione. Gli eredi di quei fantastici militari facevano le cariche con le sciabole, le lance, ecco, e lance pronte, e oggi si occupano di riabilitare chi ha bisogno, sì, o di fare un'attività di riabilitazione. Ora, gli operatori sono delle ONLUS che noi chiaramente abbiamo, e loro si occupano tutta della parte tecnica. Noi mettete i cavalli, un supporto logistico, però anche laddove spesso capita, soprattutto nel saggio di fine stagione a giugno, dove si svolge questo bellissimo saggio all'aria aperta con tutti i ragazzi, insieme le famiglie, perché poi anche questo aspetto delle famiglie nella riabilitazione western è una cosa importantissima, al di là del paziente tra virgolette, questa aggregazione, questo momento conviviale delle famiglie è una cosa molto importante. In questo saggio, dicevo, a fine anno, che viene svolto a fine anno, i soldati, i ragazzi partecipano, e noi, per noi è molto importante, perché i ragazzi si rendono conto che nella vita esiste più o meno la fortuna a vari livelli, e quindi interagiscono con i ragazzi disabili e si arricchiscono. Ecco, un piano. Abbiamo interrotto noi il nostro ascoltore Ali, che doveva raccontarci il suo rapporto d'arabo con i cavalli. Ali, l'abbiamo recuperato, eccoci. Bene, bene, io comunque stavo citando il secondo fatto, che là dove c'è il cavallo comunque c'è sempre benessere, c'è sempre soddisfazione. E ce lo sta spiegando il colonnello. Su questo io racconterei una piccola storiella di mio zio, quando si ammalò il cavallo. Questo cavallo lui lo teneva proprio quando la mattina si alzò, quindi la prima cosa che devi vedere è il cavallo. Quindi praticamente lui, avendo due o tre mogli, la mattina la prima cosa che dovrei vedere è il cavallo. Eh no, prima la moglie, poi i figli, poi il cavallo. No. Ma così aveva detto lei prima. Prima la moglie, poi i figli, poi il cavallo. No, questo nell'amore, quindi viene citato nel Corano, però sulla vita reale, quindi è praticamente... diceva tre mogli, pensi un po'. La casa di mio zio vede che è il cavallo, comunque nella camera del mio zio di fronte c'è il cavallo, la mattina esce, lo... Scusi, no, per capire, io non sono molto... Suo zio teneva in camera tre mogli e un cavallo? Sì, ognuna c'ha la sua casetta in una casa gigante di 1000 metri quadrati, e loro, ognuna c'ha la sua stanzetta, la sua cameretta. E il cavallo? Però lui, mio zio, praticamente nella sua stanza c'è di fronte il cavallo, quindi lui la sera prima di andare a letto, lui saluta il cavallo, lo accarezza e gli fa segno con la testa. La mattina lo stesso, quindi prima di fare colazione, di iniziare a lavorare, deve accarezzarlo, e il cavallo così fa con la testa. Quindi quasi voleva più bene al cavallo che alle mogli. Certo, certo. Io passerei nel secondo lato, quello storico. Quindi noi arabi riteniamo che il cavallo comunque è stato un portatore di civiltà, un portatore di economia, anche per aiutare a difendere dalle tribù che venivano a saccheggiare il paese. Quindi, oggi come oggi, questo rapporto sicuramente è stato cambiato, perché il cavallo è stato sostituito dall'alta tecnologia. Però per vivere questo, io inviterei tutti gli ascoltatori quindi di venire in Marocco, soprattutto dopo la stagione della raccolta d'agricoltura, quindi la raccolta del grano. Sì. Si inizia verso maggio, giugno, luglio, dove si fanno festival particolari in tutto il Marocco. Quindi in ogni città, ogni piccolo paese, vedi tutte le tribù che si radunano. Ma lei adesso lì come fa? Adesso lei che sta in Italia, dove va a cavallo? Va a cavallo ancora? Ma certo, certo, c'ho ancora miei zii, mie nonne. Ad esempio, l'ultimo cavallo bellissimo che ho, ce l'ha il mio zio, che sarebbe il fratello. E dove lo tiene? Lui ce l'ha in campagna, e costa una fortuna, ti dico, praticamente costa più di 20.000 euro. Vabbè, però c'è chi spende i soldi in donne leggere e chi giustamente li spende in cavalli. Ognuno spende per vivere, come... per vivere questo amore. Ma lì la devo segare, perché c'è tanti ascoltatori. Grazie, ha parlato tanto. Paola, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Io volevo portare la mia testimonianza. Abito a Roma, ho un figlio che ha poco più di 20 anni e che ha qualche problema psichiatrico da anni. Fa ipoterapia e poiché le ASL non propongono altro che i farmaci, solo l'ipoterapia è stato il suo vero percorso di conquista della consapevolezza, e davvero l'ha aiutato moltissimo. Il problema è che fa ipoterapia in un centro scientificamente molto fondato, che lavora insieme all'Università La Sapienza, che si chiama Lauriga, ma che chiude. Ah sì, è una notizia che avevo letto, questa cosa qua, sì, che c'era questo problema qua. E sentiamo la... anche perché non c'è una legge nazionale sull'ipoterapia. Alcune regioni si sono dotate di una legge, il Lazio è fra quelli che non ce l'ha, una legge razionale non c'è. Allora, siccome oggi l'ipoterapia va di moda, succede che chiunque si sveglia una mattina decide di fare ipoterapia, e chi la fa seriamente resta, come dire, a piedi per allora, mancanza, guardi, di... Vediamo se la professoressa, la dottoressa Papa, che appunto è docente dell'Associazione Italiana Riabilitazione Equestre, ci fa una sintesi, un punto anche su questa questione che vedo che interessa molto agli ascoltatori. Si parla tanto di ipoterapia, ma è un'attività che richiede appunto delle competenze, delle specifiche e dei protocolli molto ben precisi. Sì, diciamo che questa domanda mi fa molto piacere, perché credo che per quanto riguarda le caratteristiche e le potenzialità che il rapporto uomo-cavallo possa ancora avere oggi, abbiamo già detto a sufficienza, ne hanno parlato anche gli ascoltatori, anche il colonnello, e quindi è bene sottolineare questo aspetto. Purtroppo in Italia, benché questa sia una tecnica ormai da anni consolidata, e mi piace pensare e sottolineare non solo in Italia ma in tutta Europa e nel mondo, nasce in Brasile, nasce fin da Ippocrate, e quindi da secoli se ne parla in tutto il mondo, si sa perfettamente negli ambienti specializzati quanto sia utile e quanto sia efficace come terapia, però purtroppo lo Stato non riconosce questa tecnica, benché noi la chiamiamo riabilitazione equestre, non la riconosce come tecnica riabilitativa ad alcun livello, né come forma di fisioterapia, né come forma di psicoterapia, se volessimo chiamarla con questo termine generico, né in nessun'altra forma. E le normative europee invece cosa dicono a proposito? Purtroppo, come la signora ha sottolineato, non ci sono normative specifiche. In alcuni paesi, soprattutto nel nord Europa, sono state riconosciute queste tecniche. In Danimarca, nei Paesi Bassi, vengono riconosciute dallo Stato come tecniche riabilitative. In Italia esistono solo delle norme regionali. In Lombardia c'è una norma regionale che permette l'accesso convenzionato a queste terapie. Nel Lazio e in tante altre regioni purtroppo questo non è possibile, ed è la battaglia che l'ANIRE, l'Associazione Nazionale, sta portando avanti da tanti anni con lo Stato. Battaglia è un termine un pochino diciamo forte, però diciamo sta cercando di promuovere possibilità di essere la cavalleria sta con voi, quindi la battaglia cerchiamo di farla riconoscere. Purtroppo è una tecnica che lei può immaginare rispetto ad altre allora, tecniche. Allora, guardi, dottoressa, ci dobbiamo fermare soltanto un istante, lo dare la linea alle informazioni del traffico. Poi rientriamo nello specifico, perché vedo che abbiamo aperto immediatamente un problema molto sentito, lo vedo dal polso delle telefonate. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ricordo soprattutto un ponte, la Maremma, di fianco al mare, un ponte di ferro. Il mio cavallo, il Pinto, io andavo avanti e Pinto, quando con gli zoccoli, spaventato per il rumore del ponte. E più lui si agitava, più faceva rumore con gli zoccoli, più si spaventava. E quindi c'era Lucio che mi guardava al di qua del ponte, e io con questo cavallo che girava come una trottola su questo ponte, tutto sudato, io, il cavallo, continuavo anche col frustino a cercare di incoraggiarlo. Insomma, alla fine di una lotta tremenda sono riuscito, partito al galoppo a metà del ponte e è andato via. E quando mi sono voltato per guardare Lucio, lui è arrivato con i battesi e ha fatto tum, tum, tum, tum, tum. Passato il ponte. Questo è un ricordo di Giulio Rapetti in Arte Mogol, di una sua mitologica cavalcata che fece nel 70, una Milano-Roma cavallo assieme a Lucio Battisti, un sodalizio artistico venne cementato a questa sorta di pellegrinaggio a cavallo. Abbiamo in studio il tenente colonnello Michele Perugini, che è capo del centro ippico militare dei Lancieri di Montebello. Lei, colonnello Perugini, ha qualcosa a che fare comunque con queste cavalcate di Mogol? Ma qualche anno fa, adesso non ricordo bene se l'ultima è stata fatta 2 anni fa proprio da Mogol, noi furmo interpellati perché questa, diciamo, transumanza. Voi lancieri di Montebello. Noi lancieri di Montebello, perché questa transumanza, chiamiamola così, che il maestro intendeva fare, doveva partire da Milano, attraverso la via Francigena, arrivare fino a Roma, e prevedeva una serie di aiuti, di ausili logistici. Sì, perché dal 70 è anche un po' cambiata la strada. È cambiata molto, quindi ci sono dei tratti di provinciali, di statali, dove occorre anche un minimo di si hanno costruito assistenza. Raccordi, bretelle, superstrade, sì, autostrade. Sì, sì. Sì. Alte velocità, è cambiato un po' e lui ci ha chiesto appunto un aiuto dal punto di vista logistico, anche per fare campi sosta, dove mettere campi sosta. Ecco, molti mi chiedono tecnicamente, visto che abbiamo citato un rapporto più specificamente terapeutico fra uomo e cavallo, quando l'uomo ha dei problemi o di comunicazione o di rapporto con il mondo o con se stesso, il cavallo diventa uno strumento terapeutico. Ma ci può dire in sintesi cosa succede, come accade? Perché non si rendono conto esattamente bene, chi non l'ha mai visto, cosa sia. Ma la riabilitazione equestre, che poi è la fase, diciamo, più avanzata dell'ippoterapia, che comunemente viene chiamata ippoterapia, in effetti l'ippoterapia non è che l'approccio iniziale al cavallo attraverso una fase iniziale di maternage, cioè dove il ragazzo, il paziente, viene portato a cavallo con l'operatore, viene proprio sostenuto dall'operatore, perché evidentemente è anche simile all'approccio al cavallo di un allievo principiante che non ha mai visto cavalli. Deve essere un rapporto fisico. È un rapporto fisico, proprio bisogna entrare in relazione con l'animale a livello tattile anche, capirne le proporzioni, capirne i movimenti, il comportamento proprio. Poi dopo l'ipoterapia prevede una fase ulteriore dove il ragazzo o il paziente comincia a interagire con il cavallo, comincia a dargli anche degli ordini, comincia a chiedergli qualcosa, le redini, l'uso delle redini, il proprio equilibrio, la relazione del proprio equilibrio con quello del cavallo, le staffe, riuscire a stare bene sulla sella senza cadere da ogni parte. Poi c'è la riabilitazione equestre, che invece prevede proprio una fase avanzata, cioè dove con il ragazzo, che oramai è autonomo e quindi riesce a interagire con il cavallo per quanto riguarda la direzione, la volontà di avanzare, quindi governa il cavallo, si comincia a fare dei lavori anche più interessanti, più complessi, che possono portare poi ai pazienti che con un grado di disabilità non eccessivo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico, si può arrivare poi all'impiego, allo sfociare dell'ipoterapia nell'attività sportiva. E quindi la Federazione Italiana Sport Equestri ha un dipartimento che si occupa proprio di attività sportiva, quindi di attività paraolimpica per quanto riguarda i ragazzi disabili. Abbiamo l'ascoltatrice Giovanna. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, non pensavo che mi chiamasse. Comunque io seguo sempre la sua trasmissione, volevo dire un'esperienza che non ha coinvolto direttamente me, ma mia figlia, che adesso ha 42 anni, perché ha avuto una grave malattia e le sono stati regalati due puledri, perché da bambina lei amava gli animali, ma abitavamo a Nonno Piano, non potevamo. Siccome noi abbiamo un orto, abbiamo preso questi due puledri. Tenevate nell'orto due cavalli? E l'orto, sì. Un orto grande, penso. È grande, sì. E niente, lei li ha presi lì, e faceva ancora la chemioterapia in quel periodo, e subito abbiamo visto che lei, insomma... Quindi aveva un problema oncologico? Se... Sì, stava bene, però non sapeva nulla di cavalli. Poi ha fatto dei corsi e piano piano se li ha allevati. Cioè il suo, diciamo, desiderio non era tanto montare i cavalli, proprio avere questi cavalli da compagnia. Ma l'avete mai montati quei cavalli? Sì, poi facendo i corsi. Quindi ha trasformato l'orticello in una scuderia? Sì, mio marito ha fatto delle recinti, sono ancora lì, sono passati 5 anni. E ancora avete i cavalli in casa? Sì, sono veglinesi, infatti anche noi, tutta la famiglia, abbiamo conosciuto cosa sono i cavalli, perché sono degli animali così... Cioè come normalmente le persone tengono i conigli e le galline, voi tenevate i cavalli? Sì, però sono trattati bene, nel senso... No, lo immagino. Ecco, quando si sentono le trasmissioni dove li trattano male, soprattutto mia figlia, insomma. Poi vabbè, il suo desiderio sarà prende lezioni ancora, man mano va avanti, migliora, però ecco, abbiamo scoperto cos'è il cavallo, e non che noi pensavamo fosse un animale. A me faceva anche paura, perché è grosso, che fosse un animale stupido, invece è di una sensibilità. Beh, stupido è un po' difficile così pensarlo. Diciamo sì, che incuote timore. Il cavallo in effetti è imponente, non è un sì, cane o un gatto. Esatto. Dall'idea che è una bestia con cui bisogna fare i conti. Sì, sì, anche se domato, sì, comunque bisogna stabilire un rapporto, perché è grande, ti sovrasta il cavallo. È grosso, il cavallo, è grosso, il rumore però che fa il cavallo, lo zoccolo del cavallo, è un ritmo che ci atterrisce certe volte. Cioè, bisogna conoscere il linguaggio del cavallo, cioè praticamente noi dobbiamo diventare cavalli, non dobbiamo aspettare. Ultima battuta, siamo proprio in conclusione, ho 10 secondi. Dottoressa Assunta Papa, sulle parole di questa nostra ascoltatrice facciamo una conclusione. La conclusione mi sembra ovvia, è una tecnica particolare che può agire sicuramente sulle componenti motorie, neurologiche e relazionali, ma ha una caratteristica che è unica rispetto a tutte le altre tecniche. Prevede, oltre alla persona, al paziente e a un operatore, un diretto contatto con un altro essere vivente che è il cavallo. Quindi penso che sia l'unica tecnica nella quale diventa terapeuta un essere che non è un altro essere umano. Ecco, qua mi sembra la sintesi migliore, quella dell'ultima ascoltatrice, in cui una famiglia si è fatta a recinto, si alleva i cavalli, è entrato a far parte della famiglia un altro essere vivente, e questo c'è stato un vantaggio. L'argomento è quello che è molto interessante, non è detto che lo riprendiamo. Grazie al colonnello Perugini, grazie alla dottoressa Assunta Papa, a domani. Grazie. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.